si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno, buona domenica e soprattutto tanti auguri a tutte le mamme. Mother of the world. Oggi è la festa della mamma, esatto. Tutta la nuova, soprattutto la mia, direi. Come vado male con l'inglese, non ce la posso fare. Quando sono le 8:39 minuti di domenica mattina, ben ritrovati in una nuova puntata di Si può fare. 800 24 00 24. Come sempre, da subito per intervenire in diretta, raccontateci i vostri Si può fare. E giocate con noi per il personaggio della settimana. Cerchiamo un personaggio della settimana. Andiamo subito con l'indizio, così cominciate subito a pensare e eventualmente anche a telefonare. Allora, questo personaggio di cui abbiamo notizia questa settimana guarda tutti dall'alto in basso. E questo è un bel indizio, eh? Ottimo. A volte siamo meno generosi in partenza e invece oggi a volte siamo proprio più generici, del tipo è un uomo. Sì, questo personaggio guarda tutti dall'alto in basso. 800 24 00 24. Chi indovina per primo si porta a casa biglietti e catalogo della mostra di Miro al MUDEC di Milano. E va bene, siamo partiti col piede giusto. Oggi tra l'altro è anche la giornata nazionale delle due ruote, intese come... Come se fuori due gomme di una macchina, giusto? Esattamente, cioè, se perdi tutte e due le ruote dietro, hai una due ruote. Esattamente, a questo pensava Del Rio, no, pensava alle biciclette, anche se c'è stata questa polemica al Giro d'Italia, perché sembra che ci fosse in circolazione delle biciclette, Carmelo Ricella, esperto di bici in regia, col motorino. È vero, con quel motorino che aumentava del 5%. È da un po' che se ne parla, ma comunque restano due ruote anche con il motorino. Il problema è se uno mette le rotelline, per esempio, se un bambino ha la bicicletta, non sa ancora andare in bicicletta, mette le rotelline, se quelle lì non sono più due ruote. È stato bello il graffio di Dario Ceccarelli in settimana, che ha detto: beh, allora così può competere anche Valentino e lì può sperare di vincere. Cattiveria. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Cominciamo con il riepilogo della settimana. Vai. Come detto, oggi giornata nazionale delle due ruote, vi racconteremo, strada facendo, anche qualche iniziativa nelle varie città, ne parleremo con il direttore della FIAB Baroncini, che torna a trovarci, parleremo anche del finanziamento del progetto di autostrada circolare attorno a Roma, il grande raccordo anulare per le biciclette. Ma intanto il riepilogo di questa settimana ci impone di risentire le parole del presidente dell'INPS Tito Boeri, che mentre il governo sta studiando meccanismi di pensionamento più flessibile per i comuni mortali, ha riacceso la questione dei non vitalizi. Comuni mortali, dei vitalizi, dei politici, che a tutt'oggi incassano non in base ai contributi, come sta accadendo per tutti gli altri comuni mortali del pianeta, ma in base a dei calcoli loro. I dadi praticamente. No, scherzo. Numeri loro. E Boeri ha calcolato che, passando al sistema contributivo anche per loro, si potrebbe risparmiare il 40% della spesa complessiva, la cifretta non indifferente di quasi 80 milioni di euro l'anno. E poi ha aggiunto che se il contributivo si applicasse anche ai consiglieri regionali, se ne risparmiano 200 di milioni a quel punto. E quindi dice anche sufficienti per finanziare l'assegno per la disoccupazione di lunga durata. Non si sa se ridere o piangere. Ridere perché c'è qualcuno ai vertici che ne parla, piangere perché, vabbè, che volete dire? Vai. Non è sostenibile, non lo è stato storicamente, anche quando c'era un numero molto basso di contribuenti, il sistema non reggeva e lo si vedeva perché alimentava già allora dei disavanzi. La crescita del vitalizio è stata più rapida di quella dei contribuenti, quindi era chiaramente un sistema insostenibile, nonostante questo si è ritenuto di non intervenire. se mi fai aggiungere solamente una cosa, mi ha fatto ancora più ridere, se vogliamo, la risposta, la replica della Camera, perché hanno detto no, momento, i vitalizi li abbiamo già tolti perché adesso tutti i soldi che prendiamo gravano esclusivamente ed interamente sui bilanci interni di Camera e Senato. Capirai. Che un pochino ti voglio dire, beh, ma è lo stesso, nel senso che tu non li chiami, cioè non li prendi dall'INPS, fai una legge e la chiami vitaliz e prendi i soldi da lì, sono comunque i soldi nostri. Eh sì, non è che quelli della Camera e del Senato vengono rimette vengono dal loro lavoro. Allora, altra cosa che ci lascia in eredità questa settimana è una polemica, sono le dichiarazioni di Corrado Augias, scrittore, giornalista, notoriamente apprezzato per la sua pacatezza, per i suoi interventi, per il suo equilibrio, editorialista di Repubblica, bla bla bla, che però su, parlando in televisione di Cronaca Nera, e forse se ne parla troppo e alla fine si finisce anche per dire delle scemenze, non so, in questo caso lascio giudicare agli ascoltatori, l'avete sentito tutti la frase, e insomma, parlando del caso di Fortuna Loffredo, 2 anni fa, bambina 5 anni, abusata sessualmente, poi gettata all'ottavo piano di un palazzo a Caivano, e Augias ha detto queste parole qua, sentiamole. Di questa foto che questa povera madre mostra, mi ha fatto impressione questa bambina che aveva 5-6 anni, la guardi bene, guardi com'era, com'è atteggiata e com'era pettinata e come sono i boccoli. Questa qui è una bambina che a 5-6 anni si atteggia come se ne avesse 16-18. Apriti cielo, apriti sì, cielo. Sì. Se posso dire, ovviamente sono straconvinto che Augias non stesse dicendo se l'è andata a cercare, ma mi sembra in realtà più strano il fatto di fare un commento dove lui sostanzialmente dice questo stridore mi fa capire che anche lì si erano un po' persi i punti di riferimento. Ovvero che è colpa anche dei genitori, ma ci mancherebbe altro, nel senso che stiamo parlando di una storia dove la madre è indagata, il convivente della madre è indagata, quindi certo che sia una questione familiare, quindi dare la responsabilità ai genitori mi sembra un po' lapalissiano, ecco. Quasi banale, invece la reazione di tanti è stata scandalizzarsi per le parole di Augias. Sentiamo uno tra i tanti, Salvini. Ma sono parole orribili, sono una bestialità. Adesso una mamma che ha l'amore di curare, di vestir bene, di pettinare la sua bimba è in parte responsabile di un verme che la violenta la butta giù dal sesto piano di un palazzo. Ma stiamo scherzando? Ma chieda scusa in ginocchio e vada a incontrare quella mamma. Picatini inamidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti. Atletici e puristi sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, messi a posto le cartelle, reggono i calzoni con 2 comode pretelle. Rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarà individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20-1 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi e dalle spalle mi colpisci col rigurgito antifascista di 99 posse, perché di questo vogliamo parlare. È un periodo, è una settimana forse nella quale assistiamo a rinascere un po' delle destre estreme. In Austria vogliono riannettersi il Sud Tirolo, il 25 aprile è passato da poco, ci sono stati fischi, aggressioni, insulti agli ebrei in alcuni cortei. In molte città ci sono raduni di destre xenofobe e fasciste che si autorizzano, non si autorizzano, non si sa cosa fare. Noi ci rivolgiamo a un piccolo comune, non piccolissimo, dove c'è una proposta ed è il comune di San Lazzaro in provincia di Bologna. Buongiorno a Sara Bonafè. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Buongiorno. Voi avete avuto, lei in particolare ha avuto un'idea, un suggerimento per risolvere queste situazioni, sì. Perché noi siamo aperti a tutte le idee, alle più diverse, ma bisogna mettere, cosa dobbiamo mettere? Un muro, un altolà rispetto a che cosa? Alla voler imporre in maniera violenta il proprio punto di vista, esatto, a questo tipo di concezione di fascismo. E voi avete fatto una proposta, però le chiedo, Bonafè, di farcela dopo le informazioni sul traffico. Possiamo aspettare qualche secondo? Sì. Certo, assolutamente. A tra poco. Eccoci qua, di nuovo buongiorno e benvenuti da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. In collegamento con noi da Comune di San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, Sara Bonafè, consigliera comunale. Avete fatto una proposta, ce la vuol dire? Sì, guardi, innanzitutto va detto che questa proposta nasce da un ragionamento che io come capogruppo di SEL ho fatto con l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, no? E siamo partiti proprio da quello che lei diceva poco fa, cioè in un contesto storico di questo genere, dove il metodo democratico è messo a repentaglio anche nella discussione politica, no? Che cosa potevamo fare noi come consiglieri comunali, come associazione, in questo caso territoriale, e abbiamo deciso proprio di fare questa mozione che, per quanto riguarda, no, l'occupazione di suolo e le manifestazioni pubbliche nel comune di San Lazzaro, noi proponiamo una proposta che è quella di fare in modo che coloro che richiedono questi spazi sottoscrivano il fatto di rispettare la Costituzione italiana, quindi in toto, poi chiaramente in particolare la 12ª disposizione, che è quella che si occupa proprio del... è quella la cosa importante. Certo. No, nel senso che rispettare la Costituzione in teoria ogni italiano è come se lo dichiarasse continuamente, ma voi dite nel punto specifico perché cosa prevede questa disposizione, diciamolo, ricordiamolo? Cioè prevede che non si possa il 18 partito fascista sotto qualsiasi forma, però è importante dirlo, perché ricordiamoci che la Costituzione è un po' di anni fa e va interpretata in base anche alle esigenze sociali che in questo momento ci ritroviamo a dover affrontare, e l'esigenza non è solo l'avanzata delle destre, ma è anche un mezzo. Io ho fatto tre esempi, no? Ho parlato dell'estrema destra austriaca che vorrebbe riannettersi il Sud Tirolo, fate un referendum, fate quello che volete, se i tirolesi sono d'accordo siamo tutti liberi, ma sembra quasi di rievocare cose che non vorremmo neanche immaginare. E poi ho parlato dei fischi in alcuni cortei il 25 aprile, insulti ad ebrei e raduni xenofobi in diverse città di estrema destra. Lei pensa che tutto questo sia legato da un filo comune? Che ci sia un'idea di far risorgere una estrema destra, che quindi questa possa essere in qualche modo una emergenza? Beh, di solito, cioè, il problema è che quando ci troviamo di fronte a queste grandi sfide internazionali, di media quello che si fa è sempre ricorrere alla paura, le problematiche. No, abbiamo un problema sul collegamento, si sente Maluccio Bonafè, glielo dico perché non la sentiamo. Sì. O si è spostata oppure... Oppure non ha firmato la dichiarazione contro antifascista. E quindi immediatamente è scattata la tagliola di San Lazzaro. Proviamo ancora, stavo dicendo? No, stavo dicendo il problema è il fatto della paura. No, non funziona, niente. La proposta l'ha detta, sì. E consiste appunto in questa: piazza vietata a chi non rinnega il fascismo, sottoscrivere un modulo di adesione ai principi della Costituzione. A quel punto puoi fare tutto quello che vuoi. Sì, no, volevo, ero curioso di capire chi avrebbe poi monitorato che effettivamente la manifestazione in piazza fosse antifascista, e soprattutto in realtà la proposta di per sé mi sembra interessante, perché mi sembra un po' come la carta verde che viene fatta firmare per entrare negli Stati Uniti, nel senso che tu comunque dichiari quello liberamente e nessuno ti viene a dire niente, poi dopo però se fai qualcosa qualcuno ti tira fuori la carta e dice lei aveva dichiarato questo, sì. E quindi ti posso incriminare, e credo che sia un po' lo stesso concetto in questo caso, perché giustamente anche gli stessi partigiani di San Lazzaro dicono il senso della nostra richiesta non è vietare le piazze, non è che vogliamo che un sacco di persone non possano avere la possibilità di fare una manifestazione, però chiediamo che tutti quelli che vanno in piazza debbano firmare espressamente un modulo in cui si dichiarano antifascisti. Il vero problema forse è capire che cosa vuol dire essere antifascisti oggi nel 2016. Mm-hmm. Va bene, questa era la proposta, purtroppo non siamo riusciti a spiegarvela in tutti i dettagli, che viene da San Lazzaro di Savena, però come sempre non si può fare, e noi cari ascoltatori vi chiediamo 800 24 00 24 se vi ha convinto, se vi sembra interessante, siete d'accordo o se non siete d'accordo. 800 24 00 24, chiamateci, andiamo con gli ascoltatori e giochiamo, cerchiamo un personaggio della settimana, abbiamo dato un primo indizio che è guarda tutti dall'alto. Cesare da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego Cesare, su cosa volevi intervenire? Beh, la risposta secondo me è Papa Francesco, non soltanto perché oggi è domenica, ma anche perché dall'alto ci vede quando appare nella finestra del suo studio. E la notizia di questa settimana su Papa Francesco qual è? Perché c'è sempre una notizia della settimana, eh? Il notaio su questo è inflessibile, non esiste il notaio, però siamo noi. Papa Francesco questa settimana cosa ha fatto? Francamente... Ci sta pensando Cesare, se non trova la notizia la risposta non so se possiamo accettarla, eh? Bisogna essere precisi. Vabbè dai, notizia su Papa Francesco c'è sempre. Ce n'è sempre tutte le settimane, quindi direi che non facciamo i fiscali, però non era lui. Che abbiamo scelto, anche se risponde all'indizio. All'indizio era un bel trappolone questo, perché in effetti Papa Francesco fa l'angelo sguarda, esatto, e ce l'abbiamo spessissimo in realtà come risposta a Papa Francesco. Va bene, Cesare, non era lui. Grazie per aver chiamato. Abbiamo forse ancora la nostra consigliera di San Lazzaro, Bonafè. Buongiorno, ben ritrovata. Eccomi, ora vi sento molto bene. Ecco, ottimo. Purtroppo nel frattempo c'è rimasto solo un minuto per entrare nei dettagli della proposta. La risposta che noi nel comune stiamo cercando di dare è che proprio perché ci rendiamo conto della situazione, ma anche locale a Bologna, abbiamo visto le contestazioni anche a Salvini, faccio per dire, con libri strappati, e, insomma una sorta è fascismo anche quello. E quello che noi cerchiamo di fare è richiamare la Costituzione e il nostro regolamento in modo tale che tutti possano dire la propria opinione, ma seguendo il metodo democratico, perché è proprio in questi momenti che noi abbiamo il dovere come amministratori di dover riaffermare i dettami costituzionali. È fascismo anche quello di chi ha bruciato i libri di Salvini? Benissimo. Perché non rispetta il metodo democratico del dialogo, e su Salvini, mi lasci dire, c'è molto da dire con le parole. Molto. Dobbiamo salutarci perché abbiamo il giornale radio che impone. Grazie comunque, Sara Bonafè da San Lazzaro. Abbiamo fatto un passettino più in là. 800 24 00 24. Ascoltatori, adesso avete qualche elemento in più se volete chiamare per dire la vostra su questo. Noi ci risentiamo dopo il GR. Dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati col Si può fare. Quando sono le 9:09 di domenica mattina, riprendiamo la nostra cavalcata tra le notizie della settimana, gli ascoltatori, il personaggio della settimana che andiamo cercando. Tra poco daremo anche un secondo indizio. Il primo indizio che vi abbiamo dato è che guarda tutti dall'alto in basso. Ci sono puntualizzazioni all'SMS 349-238-6666 sulla proposta di San Lazzaro di Savana di vietare le piazze a chi non aderisce ai principi democratici della Costituzione. Questa è la proposta che vi abbiamo presentato questa mattina. Certi problemi, dice Mario da Milano, ci sono anche in tante manifestazioni di sinistra estrema. Bisogna intervenire su tutti gli estremismi, non solo quelli di destra. Vero, ha ragione, io personalmente concordo, credo che sia l'intento anche della proposta che viene da San Lazzaro di Savana. Infatti la consigliera comunale ha citato i libri strappati dai centri sociali di Salvini. Quindi chiunque voglia manifestare, io credo, questa è la mia personale opinione ed è il motivo anche per cui mi piace la proposta di San Lazzaro, è quella di dire con metodo democratico, rinnegando la violenza, altrimenti la piazza non te la do, poi fai quello che ti pare, se vuoi manifestare lo stesso, ma fuori dalla legalità. Questo è il senso. Il senso è che è molto difficile nel momento che tutto ciò viene messo sotto un cappello generico di antifascismo, nel senso che nella Costituzione è molto chiaro che cosa si intende per antifascismo. Oggi nel 2016 è un po' più difficile decidere, soprattutto va capito chi lo deciderà a San Lazzaro, se uno è realmente antifascista o se è estremista. Tra poco parleremo anche di bicicletta e vi daremo anche qualche appuntamento, perché oggi è la giornata nazionale delle due ruote, ci sono manifestazioni in tutta Italia, a Napoli capofila. Andiamo con gli ascoltatori. Paola che chiama da Alessandria. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Cosa voleva dire Paola? Io telefono per il quiz sul personaggio della settimana. Siamo tutti orecchi. Chi è? Allora, avevo pensato all'aereo che ha fatto la trasvolata oceanica ad energia solare. E aggiungiamo qualche elemento di questa notizia Sì. Ma non lo so, è il fatto che sia riuscito ad attraversare l'oceano senza consumare, senza se consumare niente se non l'energia solare che di cui si riforniva sulle lunghe ali. Esatto. È una bellissima storia, ma e non è quella giusta. Non è quella giusta, però volevamo che lei la raccontasse, perché quindi siamo contenti. Perché in effetti Paola è bella, è quasi più bella della nostra questa storia. Quindi ci sembrava troppo facile e quindi non l'abbiamo scelta. Però la ringraziamo comunque, molto. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno, buona giornata, buona domenica. Andiamo con Giovanni da Bolzano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma Claudio Ranieri pensava. Mm-hmm. Così, a gamba tesa, in tackle ci dai la risposta. Vabbè, sì, si sa quasi tutto sulle ultime notizie che riguardano Claudio Ranieri, però diciamo così, ricordiamo qualcosa. Ha scritto la storia questa settimana. Chi più di lui può guardare tutti dall'alto in basso? Vince il campionato inglese, più prestigioso in Europa, in una squadra che non l'ha mai vinto, insomma, con calciatori per metà dilettanti. Ma che altro dire? Direi che la favola di Claudio Ranieri, la favola di Claudio Ranieri, però non era lui, questo era un altro trappolone. Perché sicuramente Claudio Ranieri in questo momento sta guardando, anche se non è nel suo stile, però tutti dall'alto, ed era una bella trappola, caro Giovanni, in cui sei caduto benissimo. E siamo contenti di aver ricordato anche la storia di Claudio Ranieri, che per quasi due settimane a questo punto è assolutamente un personaggio mitico e simbolo. E ne abbiamo parlato anche ieri con Antonio Caprarica. Esatto. E però non era lui il personaggio che guarda tutti dall'alto. Allora, tra poco vi diamo un altro indizio dal quale capirete che cosa capire? Capirete qualcosa in più, però non voglio dire niente. Voglio dare prima la parola a Giuseppe da Cagliari per vedere se vuole rispondere o se vuole intervenire sul programma. Giuseppe. Beppe Fanni Cagliari. Eccolo, quindi qua. Telefono, sì. Per questo, perché io ho vissuto la fine del fascismo. Piansi, sì. Quando fucilarono Mussolini e la Petacci. Sono sconcertato dal fatto che si pieti il fascismo e non il comunismo. Tutto qui. Antonio Gramsci, che purtroppo è uno dei nostri conterranei sardi, viene ancora osannato dall'Unità. Giorgio Napolitano, nel 1956, disse che gli amici russi, allora comunisti, andarono a salvare gli ungheresi, il popolo ungherese. Sì, ma no, 19 anni. No, Giuseppe, ma non si parla di idee, cioè, uno può anche avere le idee di Mussolini dal punto di vista di quello che ha fatto, dei contenuti, delle idee della destra sociale, così come si possa avere le idee di estrema sinistra. Il problema è il metodo di manifestazione, cioè il fatto di non aderire a un metodo democratico. Questo deve valere per tutti, destra e sinistra. Non fa una grinza, una grinza. Però non mi piace il modo col quale stanno gestendo adesso. Io ho parlato di estrema destra perché all'ordine del giorno ci sono, a Lecco per esempio in questi giorni, due giorni fa c'era una manifestazione dell'estrema destra che dichiaratamente si presentano in maniera violenta e anche se non hanno le autorizzazioni fanno comunque queste manifestazioni. Io ho citato questo, però si possono citare anche altre storie, assolutamente. Carlo. Sì, no, in più, secondo me mi sembra interessante il discorso, però lei si chiede come mai viene vietato il fascismo e non il comunismo, però va anche detto che la Costituzione è stata scritta dopo tutto ciò che aveva fatto il fascismo e vieta il fascismo, non è che vieta il comunismo, i comunisti hanno scritto la Costituzione, che questo ci piaccia o non ci piaccia e tutto ciò che è accaduto dopo, uno poi può dire da questo punto in poi rinneghiamo il comunismo. Ma che in quel momento che nella nostra Costituzione ci sia scritto che siamo contro il comunismo non è possibile, è scritta in gran parte da comunisti, da democristiani, dai partigiani che non erano solo comunisti come ben sappiamo, quindi mi sembra ovvio che sia quello la linea della nostra Costituzione. Giuseppe, c'è ancora? Favorevole al comunismo. Come? Dico, il nostro è un regime favorevole al comunismo. Ma il nostro non è un regime in questo momento, beh, intanto. Sì, beh, non mi dica questo. Ah, va bene. Lo sa meglio di me. Siamo in un regime, Giuseppe, siamo in un regime. Mi sembra più un regime economico, se proprio vogliamo discutere di questa questione. Non mi sembra un regime comunista, ma comunque... Vabbè, ma se siamo in un regime, Giuseppe, allora ci salutiamo qua. Buona giornata. Ecco. Se siamo in un regime, allora è tutto finito, come direbbe qualcun altro. Va bene, comunque il suo punto di vista l'ha detto. Carlo, hai risposto egregiamente... cosa facciamo? Niente, il traffico. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Allora, altra vicenda della settimana che ci ha riguardato, ci ha scosso, perché noi l'avevamo intervistato, Pino Maniaci, direttore di Teleiato, la televisione siciliana che ha cresciuto generazioni di aspiranti reporter che facevano inchieste contro la mafia. Si è scoperto che cosa si è scoperto? Che è indagato Pino Maniaci per estorsione a due sindaci. Due sindaci, voleva dei soldi, questo è quello che risulta dalle intercettazioni, per parlare bene di questi comuni. E o poi, per evitare di parlare male, forse, però insomma, e lei è poi lo stesso. Le minacce che avrebbe ricevuto, che ha ricevuto, non sarebbero derivate dalla mafia, ma dalla questione di corna, vogliamo dire così, cioè l'ex marito dell'amante. E, insomma... ha preso. Beh, per noi è una storiaccia, di sicuro, nel senso che per noi fino all'altro ieri era un si può fare, e adesso attendiamo. Non solo per noi. Certo che non solo per noi, era un paladino dell'antimafia. Per tutti quelli che sono andati a studiare giornalismo da lui, per tanti ragazzi che hanno creduto in questo, deve essere stata una brutta botta. Speriamo che non gli abbia insegnato anche l'estorsione. No, esatto, ma soprattutto staremo a vedere. E comunque sì, insomma, ne esce anche se al di là di quella che sarà l'indagine, le intercettazioni sono abbastanza pesanti. Lui dice che chiarirà tutto, ma insomma lo dicono tutti, giusto? Lo dicono tutti. Sentiamo tutti Ingroia, mi sta andando via la voce. Ingroia, che tra l'altro è il suo legale. Ammesso e non concesso che siano stati scambiati questi ultimi fatti di intimidazione, per intimidazione di mafia e non fosse mafia, ci sono fatti negli anni di intimidazione provenienza dalla mafia, perfino aggressioni fisiche da parte di persone appartenenti a famiglie mafiose, in danno di Pino Maniaci, che non possono essere messi in discussione. Che altro aggiungere a questa vicenda? Staremo a vedere sicuramente... può darsi, parliamo non di Pino Maniaci, ma di chiunque altro. Magari il bene non sta tutto da una parte, il male neanche a questo punto, però sta tutto da una parte. Per cui non, così come abbiamo costruito il personaggio nei momenti in cui aiutava anche dei giovani a vedere la Sicilia in una maniera diversa, adesso non vorrei essere lì a picconare subito tutto quello che è stato costruito attorno al personaggio. Il personaggio, poi ognuno si farà le idee che crede. Va bene, comunque attendiamo l'inchiesta. Sindaci, campagna elettorale. Vabbè, si potrebbe parlare di Livorno, ma non ne parliamo perché andiamo oltre. No, non abbiamo audio, abbiamo gli audio su Roma. Roma, dove c'è il caos del centrodestra. Sentiamo subito la Santanchè che dice che Berlusconi ha sbagliato, perché questo. Anche perché subito dopo ha detto, io non l'ho mai detto, quindi è interessante. Sentiamo. Berlusconi, secondo me, ha sbagliato come visione, come strategia, perché ero contraria al patto del Nazareno. Certamente lo dico già oggi, se io fossi a Roma voterei per la Meloni, non avrei mai fatto la scelta di Marchini. E questo, diciamo, è l'ultimo strappettino nel centrodestra. Invece c'è una botta risposta tra Raggi e Meloni sulla questione della legalizzazione della cannabis. La cannabis, di cui parliamo spesso il sabato e la domenica mattina. Esatto, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle su questo e la Raggi la sposa, e sentiamo come risponde la Meloni. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento ha presentato un disegno di legge per la regolamentazione della cannabis e in realtà è opportuno aprire un dibattito su questi temi perché occorre assolutamente sottrarre questo tipo di commercio al racket e alla criminalità, quindi è fondamentale aprire un dibattito su questo. La geniale soluzione della candidata del Movimento 5 Stelle per combattere gli spacciatori, la diffusione della droga al Pigneto è legalizzare le droghe. Ora sicuramente gli spacciatori ora sanno per chi votare. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, e allora poteva nella giornata mondiale delle due ruote mancare qui a Sipuo, nazionale, chiedo scusa, nella giornata nazionale delle due ruote mancare qui a Si può fare Frankie High Energy con Pedala, no, e non poteva tutto, poteva mancare Francesco Baroncini, direttore della FIAB, buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi, buongiorno, buona domenica a voi e auguri alle mamme. Giusto, buongiorno e auguri. Auguri alle mamme e ai ciclisti, dai, non facciamo... Alle mamme cicliste. Dai. Alle mamme cicliste, oggi tra l'altro giornata nazionale della bicicletta, c'è Bim Bim Bici, la manifestazione che la FIAB fa dedicata a tutti i bambini. Esatto, vogliamo dare qualche appuntamento? Napoli, per esempio, è l'appuntamento fondamentale, la piazza principale di quest'anno. Sì. Poi ci sono 200 città in tutta Italia che organizzano questa grande festa delle bici e dei bambini sulle biciclette. Pedala, oggi Milano c'è il sole, Carlo, Milano Monterosa. Bellissimo, c'è il sole, è la giornata perfetta per andare in bicicletta, Bim Bim Bici. Baroncini, a Milano Simona Tagli, candidata per il centrodestra, fra le sue proposte dice meno piste ciclabili e più sicurezza. Addirittura dice il tempo è prezioso, bisogna circolare più velocemente, togliete di mezzo le biciclette. Sottolineando questa follia dove si pensa che in bicicletta ci si mette di più e invece in macchina è un attimo, quando tutti sappiamo che in macchina tra parcheggio, traffico, ci metti il triplo del tempo, quindi se uno ha veramente a cuore la fretta io prenderei la bici. Esatto, fatemi voce da sé fuggita, si direbbe in altro modo, anche perché questo mi dimostra che evidentemente la signora Tagli non ha molto a cuore, non ha molto visto Milano, sono soprattutto i professionisti, le persone per cui il tempo ha il valore più alto ad usare la bici e non lo farebbero se non fossero veloci. Detto questo, in generale in bicicletta si fa molto prima, nel raggio di 5-7 km con una bicicletta normale si fa prima che in macchina, in motorino e con qualsiasi altro mezzo. No, tra l'altro io non dico nulla perché non vorrei dire cose offensive nei confronti di Simona Tagli, sulle dimensioni del suo cervello, ma non l'ho detto, non l'ho mica detto, però c'è un posto nel quale hanno fatto quello che dice lei ed è Pechino, in Cina, dove... Baroncini, cos'è successo? Sta ammazzando un Bim Bim Bici? Sì, sono vicino a Bim Bim Bici, per questo sentiamo cantare bim. Bambini e voci di ragazzi che gridano. No, dicevo, c'è un posto a Pechino, qualche settimana fa, il governo ha vietato il transito delle biciclette in alcune strade centrali, ma tipo, avete presente quelle strade che sono tipo autostrade, dove le auto circolano a 140 all'ora e anche nei grossi snodi all'interno della città, per vietare, per migliorare la sicurezza, perché lì muoiono ciclisti come mosche. Però è un po' strano, visto che a morire sono i ciclisti, dire per più sicurezza vietiamo ai ciclisti di passare, anziché dire alle macchine di rallentare o di inventarsi delle altre soluzioni. Comunque, ma se possiamo dire, forse... Permettetemi, è esattamente l'opposto. Cioè, nel momento in cui aumenta il numero di ciclisti, diminuiscono gli incidenti. Certo. Qualsiasi esempio... Guardi, l'ho letto l'altro giorno, tanto per non citare sempre le città, Danimarca, Germania, Olanda. Rio de Janeiro, non esattamente quello che si pensa il posto più ciclabile del mondo, hanno investito negli ultimi anni sulle piste ciclabili e hanno ridotto il 60% gli incidenti, perché sono aumentati i ciclisti. Ma infatti non andrei né su sicurezza né su velocità, consiglierei a Simona Tagli, che visto che dopo aver fatto la Valletta in realtà ha aperto un salone da parrucchiere, forse l'unica cosa che si può dire è che in bicicletta ci si spettina, questo può essere, nel senso che se stai in Ferrari al semaforo ti spettini di meno, in bicicletta un pochino potresti spettinarti, questo glielo possiamo passare, per il resto vabbè, mi sembra che compreremo una spazzola alla signora Tagli. Perfetto, mi sembra perfetto. Allora, Baroncini, a parte questo, c'è l'altra notizia che è il finanziamento del grande raccordo anulare a Roma delle biciclette, il Grab. Questa cosa è una buona notizia. Possiamo immaginare di sognare anche noi, come abbiamo fatto l'altra volta che guardavamo all'autostrada delle bici in Germania, diciamo, ma quando succederà da noi? Succederà da noi? Sì, prima o poi succede, perché comunque al netto di qualche affermazione dei candidati che probabilmente hanno bisogno di distinguersi, ora al di là delle battute più o meno divertenti, questo è, c'è un grosso movimento a favore delle biciclette e degli investimenti in ciclabilità, perché ci sono le richieste da parte dei cittadini, quindi è per questo che arriveremo. Il Grab è già un inizio, è una cosa buona, al netto del fatto che magari sarebbe bene non pensare ad un anello chiuso ma a una rete. Se io penso all'anello chiuso, poi ho anche il problema di come ci entro e ci esco da quest'anello. Ah, è vero, no. Perché questo qui sarebbe un anello che gira intorno a Roma. Non esco mai, ma faccio il record. Esatto, più o meno. Poi sarebbe, sì. Tanto sempre perché oggi siamo in voglia di divertirci. Sarebbe divertente chiamare Corrado Guzzanti e chiedergli, dopo il grande raccordo anulare, cantaci qualcosa sul Grab, però certo. Come le fa dal Palocco e le altre uscite? È il più gigantesco velodromo di sempre. No, volevo aggiungere una cosa, nel senso che sono d'accordo con lei quando dice che sono anche affermazioni di candidati che vogliono distinguersi. Forse dovremmo arrivare a un punto in cui la viabilità in bicicletta, la sostenibilità dei trasporti dovrebbe essere un argomento uguale per tutti, nel senso che c'è poco da schierarsi, nel senso che mi sembra difficile oggi nel 2016 schierarsi a favore della benzina e contro le biciclette. Infatti, oltretutto quella che è l'esperienza nostra di FIAB, che siamo in 150-200 città in tutta Italia, abbiamo lavorato, i nostri gruppi locali hanno lavorato benissimo con amministratori di tutti i colori, cioè abbiamo avuto amministratori di centrodestra o destra che si supporrebbe fossero totalmente schierati sul partito delle auto, e invece non è così, giusto. Giusto. È l'opposto preciso, quindi non è. Le biciclette fondamentalmente non hanno colore, si tratta di spostare i propri cittadini. Tra l'altro, di garantire sì. Una città che è vivibile. Tra l'altro, a Milano in particolare. Il movimento dei ciclisti che Baroncini ricordava, sostenuto dall'amministrazione pubblica, nasce con un'amministrazione di centrodestra, Letizia Moratti, la chiusura del esatto. Centro, Area C, il bike sharing, le piste ciclabili, quindi c'è stato anche un referendum che i cittadini hanno votato per chiedere l'estensione di queste misure e non la loro diminuzione, quindi tornare indietro su questo credo che sia difficile, però insomma ognuno poi pensa come vuole, siamo in campagna elettorale. Baroncini, quindi il finanziamento del Grab, però bisogna monitorare, bisogna stare attenti, perché di annunci ne abbiamo sentiti tanti. Qua poi Del Rio ha detto una cosa che mi ha impensierito: adesso tocca a Roma di realizzare velocemente questo percorso importante per le biciclette. Visto com'è la situazione a Roma, In campagna elettorale io non entro, ha detto bene lei, tocca ai cittadini pensare bene ai vari candidati che cosa propongono, poi sì, tocca a Roma darsi da fare e anche ai romani, ai ciclisti romani darsi da fare, ho letto delle cose, so anche quello che è la visione del Grab, io torno a dire, la FIAB pensa che sia una cosa buona purché pensata in un'ottica di rete, non nell'anello... Non nel fare il circuito per il neutrino, sì. Poi sappiamo che la Germania e i neutrini passano da Ginevra al Gran Sasso, però lì si tratta di andare, che so io, da Ostia a Roma Nord. Ecco, ma se questo qua è un progetto annunciato, benché finanziato... Annunciato e finanziato. finanziato. Esatto, annunciato e finanziato, però sempre annunciato per il momento. Vogliamo invece dire dove si è fatto qualche passo in qualche città più concreto? Ci sono tanti progetti che riguardano autostrade delle biciclette, c'è la ciclabile Venezia-Torino, c'è Bologna che ha una sua piccola tangenziale delle biciclette. Qual è il progetto in questo momento realizzato che le piace di più ricordare adesso? La bicipolitana e tutti i progetti di bicibus e pedibus che abbiamo in Italia, come FIAB abbiamo pubblicato anche il libretto. Questo forse è la cosa più semplice per un'amministrazione comunale a proposito, ecco, a proposito di automobilisti indisciplinati. Non si faccia mettere sotto per avvalorare la sua tesi. Io sono fermo su marciapiede, per cui perfetto. Siamo più che tranquilli. No, anche per non avvalorare la tesi del ciclista indisciplinato, che non va bene. Vabbè, lasciamo su questo veramente. Permettetemi di trincerarmi dietro un profondamente inglese no comment. Va bene, glielo permettiamo. Però no, io non glielo permetto. Beh, ci sono i ciclisti indisciplinati, dai, ci sono quelli che vanno certo contromano che e invece di rallentare. Vanno contromano ed esattamente. Andare contromano è la cosa più sicura che un ciclista possa fare, se permettete, perché si vedono le macchine vedono noi. Sì. No, non però, esiste una però dove non si può andare, però dove non si può andare non si deve andare e bisogna rallentare, perché se mi acceleri contromano poi è un problema per tutti. No, allora, perché... l'idea fondamentale, il consiglio che diamo sempre come FIAB è se siete controsenso, perché poi contromano è anche sbagliato come parola da usare, controsenso, fermatevi, fate molta attenzione a quello che fate perché siete in torto. Dopodiché, che si passi controsenso perché la strada più corta, e i ciclisti prendono sempre la strada più corta, detto che si può fare di andare controsenso, perché ad oggi, per come è il codice della strada oggi, nelle zone 30 all'ora, se il comune si assume la responsabilità, si può tranquillamente usare il controsenso, non è un gran problema, tocca alle amministrazioni darsi da fare anche in questa, e questa è una riforma a costo zero, si tratta di mettere un cartello eccetto bici. Certo. Si fa in tutta Europa, si fa anche in Polonia. Però è giusto ricordare quello 30. Che lei ha detto, che comunque se si va controllando in questo momento in Italia si è in torto, perché sennò si crea un pasticcio per cui viene detto che le biciclette pensano di essere dalla parte della ragione. Si è in torto, è vero che a volte lo si fa non tanto per la questione di pigliare la strada più breve, che tutti vorrebbero prendere la strada più breve, anche quelli con il camion, però è vero che in bicicletta a volte la si prende perché giustamente dice tanto io sono una bicicletta, sto di lato, quindi non è che impedisco alle altre macchine non passare. Sì, e nel caso sicuro, perché la macchina pensano sempre ce la faccio superare il ciclista e poi lo centrano. L'incidente più normale per il ciclista è il tamponamento da certo. parte della macchina. Non, un ciclista non viene mai investito in frontale da un'auto. Sì, sì, questa è la ragione che dicevo, che ci vediamo reciprocamente e siamo in grado di gestire gli spazi. Sì, però questo anche perché non la raccontano mai. Si fermano. A quel punto i ciclisti si fermano. Non è un buon motivo per farsi centrare anche frontalmente. No, esatto. No, assolutamente no. Va bene, allora abbiamo detto anche un po' di appuntamenti. Napoli, tante città, sono 200 le città dove tante oggi città, si va in bicicletta. Bimbimbici.it è il sito, e lì chi vuole può andare a cercare se la propria città offre questa manifestazione. Anche perché sono talmente tante che solamente a nominarle, se no finiremo la trasmissione. Sì, ti porto via fino a stasera. E buone pedalate a tutti, allora. Grazie mille, buona pedalata. A tutti, ancora auguri alle mamme. Grazie signori, buon lavoro. Grazie, ciao, arrivederci. Arrivederci. Allora, beh, insomma, qualcosa sul ciclista indisciplinato ogni tanto bisogna dirlo, perché giusto. È vero, cioè, io ho detto su Simona Tagli, sono andato giù anche abbastanza pesante, non si può pensare di eliminare le bici per eliminare gli incidenti dei ciclisti, perché questo si commette da solo, però anche il ciclista ci deve mettere il suo, perché per ogni ciclista indisciplinato poi ce ne sono tutti quelli bravi che si beccano gli insulti lo stesso. Ma da parte è giustissimo ricordare anche i ciclisti indisciplinati, anche perché sennò spesso poi quando si parla con le associazioni sì. si rischia che siano loro stessi a difenderle, invece io, giustamente ha ricordato, si è in torto se si va in contromano. Nella zona dove abito io è una zona 30 a Milano e io sono felicissimo che ci sia, e quindi assolutamente d'accordo con Baroncini, però con quella postilla lì di zona 30 vuol dire che se hai più di 30 anni non puoi passare, giusto? Infatti, per quello che è bello, io infatti mi camuffo dentro. 800 24 00 24, però dobbiamo dare un secondo indizio, ci siamo dimenticati di dare l'indizio un quarto d'ora fa praticamente. Verissimo. Oggi perché abbiamo molta fiducia nei nostri ascoltatori che ce la facciano anche con un solo indizio, ma ecco qua il secondo indizio: il personaggio che stiamo cercando domina la campagna elettorale. Quindi entriamo nei temi della campagna elettorale, cari ascoltatori, e cerchiamo un personaggio di questa settimana che guarda tutti dall'alto e domina la campagna elettorale. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In bilico tra santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso in mai dire. Allora, cari ascoltatori, a noi ci piacciono i cittadini che si organizzano nei comitati, si organizzano per le loro questioni dei loro quartieri, eccetera, eccetera. Ci piacciono un po' meno quando vogliono vietare gli eventi tipo il concerto, tipo il concerto dei Negramaro e di Mica allo Stadio delle Palme di Palermo, concerti previsti per il 26 giugno e il 26 di luglio. Vogliamo entrare nel merito di questa protesta anticoncerto per capire cosa c'è che non va. Buongiorno e buona domenica, Leonardo Canto. Presidente... Buongiorno a tutti, grazie per questo spazio, buongiorno. Buongiorno. Un rappresentante, in questo caso il presidente dei comitati civici di Palermo. Vi siete attivati perché dite questo concerto, questi concerti non sanno da fare. Perché? No, questi concerti sanno da fare. Non sanno da fare nello Stadio delle Palme perché è l'unica struttura a Palermo che ospita diciamo le associazioni sportive, gli atleti, diciamo che è una struttura idonea per fare sport nella città di Palermo. Ci sono tante altre strutture per poter fare questi concerti, queste attività importanti. Palermo è piena di questi posti e tra l'altro dico, non lo diciamo noi che non si può fare, noi abbiamo fatto un esposto perché c'è espressamente un regolamento da diversi anni che vieta l'utilizzo dello Stadio delle Palme per manifestazioni che non abbiano contenuto sportivo. Quindi noi abbiamo contestato al dirigente che ha firmato questa delibera di avere agito contra legem, in questo caso contro il regolamento comunale, e per questo abbiamo fatto una diffida dicendo che speriamo che non ci siano danni, che si svolga tutto bene, tutto in regola, però qualora si dovessero verificare dei danni, diciamo ne risponderebbe lei personalmente. Dico, questa non è sembra sempre però che ci sia un motivo, no, per vietare, se Bruce Springsteen ha suonato a San Siro, se a San Siro si fanno tanti concerti e poi si fanno comunque le partite tutte le domeniche, vuol dire che si riesce a fare le due cose, no? Ma questo, per carità, dico, chiediamoci perché farlo lo Stadio delle Palme. Pensate che lo Stadio delle Palme ha un sostrato in tartan dove non è concesso neanche l'accesso alle persone che non siano tesserate. Cioè, se lei oggi va a correre là, gli inservienti dicono: oh, guardi, lei non può entrare. Pensare di farci un concerto per noi cittadini è un qualcosa che mette a rischio l'unico bene che consente agli atleti di potersi allenare, di poter fare il proprio lavoro. Ma al di là di questo, nulla questio se non ci fosse un regolamento che è chiaro. Tra l'altro volevo dire anche questo, la nostra posizione non è una posizione solo di cittadini, è stata anche condivisa dal segretario generale del Comune di Palermo, il dottore Dall'Acqua, il quale in una nota... Il quale abita a pochi metri, no, dico io, dallo Stadio delle Palme. No, non credo che abiti a pochi metri. Ma mi scusi se ma penso dov'è male, che si, però. Dov'è che si dovrebbe fare questo concerto? Dov'è che si potrebbe fare e perché non lo si fa in un altro posto? Questo noi l'abbiamo detto all'amministrazione comunale. Abbiamo cercato un dialogo prima con il sindaco, con gli assessori, con i dirigenti, dicendo ci sono tantissimi posti, Palermo, diciamo, i concerti si fanno da anni, si fanno al Castellammare, si fanno al Teatro della Verdura, ci sono tantissimi teatri, tantissimi e perché posti. Loro questa non li... scelta secondo noi in un certo senso è una scelta che, dove non c'è stato un dialogo, dove non c'è stata una partecipazione, tant'è che tutte le associazioni sportive faranno un flash mob il giorno 20 maggio, proprio davanti alla Stadio delle Palme, per rivendicare diciamo il diritto ad utilizzare questa struttura, che ripeto purtroppo è l'unica. Ecco, per fare però mi scusi, a Palermo, mi per scusi, fare atletica ce n'è uno solo. Va bene, e quindi voi difendete quello dell'atletica. Quello che io non capisco è come mai, cioè perché l'amministrazione dovrebbe volervi male e aver deciso proprio di venire lì perché vuole rovinare l'atletica. Mi sembra difficile pensare questo. Non vuole rovinare. E allora come mai? E perché loro dicono? Lo abbiamo chiesto, non c'è mai arrivata una risposta, tant'è che abbiamo dovuto fare sia una diffida che una esposta alla procura. No, ma c'è stata una risposta, perché all'inizio sembrava che il concerto dovesse venire spostato, poi bisognava farlo al velodromo, poi invece sono tornati a quello stadio, quindi si saranno chiesti perché non spostarlo in degli altri posti, vi avranno ascoltato e hanno deciso di no. Come mai hanno deciso di no? Dovremmo chiederlo a loro, forse perché hanno cercato di rimettere in sesto il velodromo e non ci sono riusciti. Ma questo, dico, è una domanda da fare all'amministrazione comunale, non ai comitati civici, che sono dei semplici cittadini che fanno notare che ci sono 100 posti a Palermo per fare il concerto. Dico, non è né la prima né l'ultima volta che vengono degli artisti di livello nazionale a fare dei concerti a Palermo. Speriamo che non sia l'ultima volta, ecco, no? Perché non vorrei che poi impauriti da queste proteste poi noi restiamo, almeno io personalmente, nel dubbio. Certo, organizzare concerti è un'attività che va fatta con professionalità. La settimana prossima o più avanti magari chiameremo il nostro amico Dino Lupelli, che ho amico conosciuto recentemente, che è bravissimo a organizzare concerti, eventi, e cercheremo di entrare magari più addentro a queste vicende. Boh, io non mi sono fatto un'idea, spero che i concerti si facciano. Abbiamo voluto sentire le ragioni del comitato qua di Palermo e staremo a vedere. Certo è che ogni volta che si organizza un concerto c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da eccepire, ma se dovessimo dare retta a tutti non si farebbe più niente. Questo è il mio ragionamento alle 9.45 di domenica mattina. 800 24 00 24. Ascoltatori, tra un attimo dopo il traffico, sì. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, Michele chiama da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Allora, io volevo dare la risposta, è possibile? Ma certo. Bene, bene. Allora, a mio avviso, secondo le vostre, i vostri consigli, è il signor Casaleggio. Come? È Casaleggio. Casaleggio, esatto. Casaleggio quale? Padre il babbo, quello che poveretto è scomparso da poco. Guarda tutti dall'alto, questo credo che sia esatto. Il primo indizio. E il secondo indizio? Beh, domina la campagna elettorale in quanto... Vabbè, perché sicuramente una certa ancora influenza, no? Certo, sì, giusto. E la notizia... Ci deve dire la notizia di questa settimana, perché forse ha uno qui scoop che noi difficile. Non conosciamo. Qui la vedo più difficile, esatto. Ah beh, sì, ripensandoci è vero. Più sul primo... Michele era partito con tanto entusiasmo, l'abbiamo gelato, perché in effetti non era lui, non il personaggio. Era il nostro personaggio. Anche se, devo dire, Michele, notevole la fantasia, no, la pensata su Casaleggio ci stava tutta. Non avevamo però pensato a lui come personaggio. Aggiungo un indizio, oggi potrebbe essere una di quelle domeniche rare in cui non si indovina, è pazienza, succede. Allora, di solito entra in azione d'inverno. Questo è il terzo indizio. Domina la campagna elettorale, guarda tutti dall'alto e di solito entra in funzione in inverno. È un personaggio, vogliamo dire anche che a volte i nostri personaggi non sono umani. Questo a volte è successo. Certo, come no, assolutamente. Abbiamo fatto Peppa Pig, abbiamo avuto delle bellissime risposte già oggi, WhatsApp, sì. Già oggi con l'aereo energia solare. 800 24 00 24, c'è ancora qualche minutino per tentare, adesso andiamo a Parma. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate di denari. Non ho colpa se se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita capita ogni domenica, e se non hai mai vinto fino ad ora sei stato sfortunato amico, tenta ancora. Allora, cari ascoltatori, come sapete noi non facciamo una crociata contro le slot machine o le sale slot, però insomma abbiamo visto nelle nostre città chiudere teatri, librerie, cinema. Chiudessero anche una slot, tu dici. E aprire decine, centinaia di sale slot da tutte le parti, quindi qualche domanda ce la facciamo. Se a questo aggiungiamo il fenomeno della ludopatia, che è grave, gravissimo, ne abbiamo parlato spesso. Gente che si rovina veramente e sputtana tutto, pensioni, stipendi, alle slot. E allora, rovina pure la propria famiglia. Qualche domanda in più ce la facciamo. Allora andiamo a vedere perché a Parma, lo chiediamo all'assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Parma, Cristiano Casa. Buongiorno. Buongiorno. Perché anche in questa città si è deciso di ordinare delle, di adottare delle ordinanze? Tanto qual è l'ordinanza? Ma dunque, l'ordinanza prevede la limitazione degli orari dell'utilizzo delle macchinette, quindi non prevede, riguarda sostanzialmente l'uso di queste macchinette che troviamo in esercizi commerciali, in tabaccherie, nelle sale giochi, nelle sale bingo. E questo è il risultato innanzitutto di una discussione molto condivisa, almeno per quella volta, all'interno del Consiglio Comunale, dove unanimemente ci siamo trovati tutti d'accordo. Oh, nel anche questo per una volta. Tra l'altro mi faccio dire solo una cosa, quando c'è l'unanimità si è contenti, perché non succede mai per i partiti politici, però poi uno sotto sotto sospetta anche sempre che non ci siano decisioni concrete, non ci siano ricadute, perché quando siete tutti d'accordo è perché in ballo non c'è niente. Invece questa volta in ballo c'è qualche cosa? Sì, oggettivamente c'è qualche cosa, nel senso che noi stiamo cercando di contrastare questo fenomeno. Purtroppo la cosa strana è che noi stiamo contrastando, non lo dico per polemica, sostanzialmente una decisione del governo, perché alla fine c'è poco da fare. L'apertura delle sale VLT, delle sale slot, non è autorizzata da licenze del comune o dalla regione, viene autorizzata semplicemente attraverso un rilascio di un'autorizzazione della questura, certo, in caso certo. di Parma, che deve soltanto verificare la presenza di requisiti soggettivi, quindi il fatto che il titolare non sia un pregiudicato, quindi cose non entra nel merito, per intenderci, quindi bene o male deve sempre concederla. Quindi noi cosa abbiamo detto? Abbiamo pensato a tutta una serie di iniziative da mettere in atto, e questa è la prima. Quindi quali sono gli orari? I limiti orari? Gli orari potranno essere utilizzate tra le 10 e le 13, sì, e tra le 17 e le 23. Dovranno essere anche spente in questo periodo. E questo adesso abbiamo avuto, innanzitutto tutto è partito da un confronto con l'azienda sanitaria locale, quindi con l'USL locale, che oggettivamente sta portando dei dati che sono piuttosto preoccupanti, e soprattutto che non considerano il sommerso. Giusto per dare qualche elemento, tra il 2010 e il 2013 diciamo gli utenti trattati sono aumentati del 117%, nel 2014 sono arrivati a livello Emilia-Romagna intorno ai 1300 pazienti trattati, e nel 2015 sono aumentati ulteriormente. Quindi il tema però è che il sommerso non si vede, perché ovviamente molte persone... Se no non sarebbe sommerso, certo. Esattamente, e quindi questo è l'aspetto preoccupante. Quindi ci siamo confrontati anche col questore, a quel punto siamo partiti, adesso abbiamo preparato l'ordinanza, verrà firmata dal sindaco nei prossimi giorni, e quindi poi partiremo con i controlli e con questo tipo di misura. E poi vedremo se ci sarà qualcuno che la impugnerà, perché è successo per altri comuni. Qualcuno mette in discussione il fatto che i comuni abbiano una reale competenza su questa possibilità. A noi interessava capire quali sono i limiti, dove si sposta il confine, anche a Parma. E lei ha fatto bene a ricordarlo, perché questa è un'iniziativa che riguarda la sinistra, il Movimento 5 Stelle, la Lega, quindi tutti, amministrazioni tutti, anche tutto. Molto diverse. L'unico che non è d'accordo è il governo, perché ci incassa circa, credo, 10 miliardi di euro l'anno. Noi ci dobbiamo fermare qua. Assessore Casa, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Siamo in chiusurissima. Luca da Modena per il personaggio, credo, della settimana, in 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere. Innanzitutto buona domenica e complimenti per la trasmissione. Dovrebbe essere la funivia o la teleferica che la Raggi, la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma, ha proposto come diciamo nuovo mezzo di comunicazione aerea per Roma, tra un quartiere e l'altro. Siamo stati buoni. E c'è l'applauso. L'applauso dall'alto della funivia. Era lui, era lei, anzi. Bravo Luca, grazie. Grazie. Vinci i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al MUDEC di Milano. Complimenti. Complimenti. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Ricordo solamente l'eterno tour di Fossi in te insisterei. E quindi vi dico che oggi sono ad Arezzo, stasera alle 18 allo Spazio Seme a presentare il mio libro. Invece lunedì sono a Genova al Life Festival, all'apertura del Life Festival alle 20. E poi sarò a Milano invece allo Spazio al Circolo Filologico. Viene anche a Milano, esatto. Dove devi lavorare con ne ho noi, fatte tante a Milano, a una manifestazione che si chiama 5x15, dove in realtà non parlo solo del libro, sono 5 persone che fanno degli speech un po' tipo TED, e io parlerò anche del mio libro. Invece io oggi vado a fare il trasloco. No, questo non c'entra nulla, però è vero. No, se grazie. Volete aiutare il trasloco di Alessio, venite. Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudia Schiattone, Carmelo Rolicella oggi in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Tanti auguri alle mamme. Ciao.